fosse un giorno di teppismo, enigma, logismo, incoscienza e certezza, ma la voce di un grillo all'ippodromo, desaparecido come in Argentina, alla mattina, occhi svegli alla finestra in poltrona, all'alba, guardo un in stile grande fratello, fuori parli solo col signor Manganello, è il mio appello, è un basta, un tam tam, un coro in memoria, un coro va per la verità. È un impresario il funzionario, se ti carica di svario, calcoli inventati per memorie senza diario, biro senza brio, calcano solchi già scritti, e tu, come un sub, esplori tracce di relitti, derelitti e mai diretti, fiacchi ufficiali coi fiocchi, incline alla più F, sono stracci mentre tacci d'eresia, stimoli follia nel farmi credere che qui comunque il tuo perché ci stia, stato di polizia, garanzia di sta quiete che non si vede, mai da difendere brandendo un macete, e chi ci crede, alla faccia di un prete che in confessionale assolve omissioni di fede. Omertà e flop dentro a sto sistema, incancrena la verità ora, pesa sulla schiena e schiaccia il problema, se il problema è il respiro, il destino è buffo, se ne va con un soffio. Hanno portato via.